Tempo di sport. Che è in corso la Confederation Cup e l'Italia ha beccato niente meno che dall'Egitto. La seconda è che il campionato di basket è finito da 3 giorni con il previsto trionfo di Siena, dunque è venuta a mancare l'urgenza dell'attualità. Alla sfida tra Siena e Milano dedicheremo comunque l'ultima parte del programma, adesso sotto con i commenti e le reazioni a questa sconfitta dell'Italia, niente meno, dicevo, che con l'Egitto. Il commento a caldo di Marcello Lippi. L'obiettivo era di giocare con due attaccanti veloci larghi e con Rossi, che non è certo un centravanti di stazza, che venisse fuori e portasse fuori il loro numero 20 o comunque il loro stopper. E invece tutte le cose che abbiamo preparato non le abbiamo fatte, non certo per mancanza di volontà, però la realtà è che non le abbiamo fatte. Ho visto una buona Italia per 20-25 minuti, poi l'ho vista troppo remissiva e poco intraprendente dopo che abbiamo preso il gol. Ci siamo fermati ad aspettare loro, non abbiamo... Poi nel secondo tempo ho detto che invece siamo cresciuti, siamo andati a pressare, siamo andati a giocare, abbiamo fatto un ottimo secondo tempo e creato 3 o 4 palle gol nitide. Questo è il commento di Lippi a caldo, poi le agenzie dicono che c'è appena stato una riunione in spogliatoio tra Lippi e i giocatori. Leggo: faccia a faccia negli spogliatoi del college all'indomani della sconfitta, ha parlato ai titolari di ieri, ai giocatori entrati nel secondo tempo. Una ventina di minuti dopo che erano già scesi sul terreno per il riscaldamento un piccolo gruppo di giocatori non impiegati ieri, i titolari impiegati ieri hanno lavorato in palestra, insomma un indomani non facile, perché da una parte deve prevalere un minimo di razionalità, e cioè il fatto che questo non è il mondiale, è un torneo di preparazione al mondiale, il mondiale manca un anno, la squadra va rinnovata, quindi questo rinnovamento va lentamente studiato da una parte e metabolizzato dall'altra. Questo è l'aspetto razionale della vicenda. Poi ce n'è uno un po' meno razionale, ma che comunque è statistico e quindi come tale non contestabile, e cioè che nella storia del calcio l'Italia e l'Egitto non aveva mai perso, e se è successo ieri, poi in maniera anche, diciamo pure anche sfortunata nel finale, insomma, se è successo, questo non è un campanello d'allarme, ma è qualcosina di più, anche perché la sconfitta con l'Egitto segue una prestazione contro gli Stati Uniti che era stata un tantinello gonfiata grazie alla rimonta nel secondo tempo, dimenticando che quella rimonta era avvenuta contro un avversario ridotto in 10 oltre che non irresistibile di suo, e quindi è ora di cominciare a riflettere, ed è inevitabile che le critiche si facciano sentire. Buffon: siamo campioni del mondo, siamo anche campioni del mondo nel complicarci la vita, e però insomma, vedendo un po' la partita di oggi, penso che come minimo il pareggio fosse un po' più giusto. Questo direi che è oggettivamente condivisibile, il pareggio era comunque meritato, forse anche strameritato, soprattutto nel finale, però è anche vero che si è rivista non ancora una costante, speriamo, ma insomma certamente un altro dato allarmante, cioè il fatto che la partenza dell'Italia sia lenta, sia poco brillante, e gli avversari, se non al primo o al secondo tentativo, trovino il modo di far centro. E poi nel secondo tempo l'Italia si è costretta a rimontare. Non stiamo parlando di sfide contro grandi potenze, stiamo parlando di Stati Uniti ed Egitto. Egitto già assai più autorevole, ma insomma, pur sempre Egitto. Chissà, e mi rivolgo a Fabio Tavelli, buongiorno Fabio. Buongiorno Gigi. Chissà cosa avranno combinato gli egiziani stanotte, perché qualcosa ce l'ho sott'occhio dalle agenzie. Ma insomma, tu che hai seguito fino a tarda ora a Sky Sport il dopo partita, immagino che ne saprai di più. Ma guarda, ieri ci hanno segnalato da subito una autentica invasione di cittadini egiziani per le vie di Milano. Noi abbiamo fatto anche dei collegamenti con Torino, dove abbiamo potuto vedere che all'interno poi di ristoranti, pizzerie, così, in molti hanno seguito la partita, e poi hanno legittimamente e giustamente sofferto nel secondo tempo e altrettanto legittimamente e giustamente festeggiato alla fine. Poi si sono anche uniti anche rappresentanti di etnie diverse ma di identica religione, insomma è stata una festa. Poi io non sono meno informato di te su quello che è il resoconto della nottata, perché poi mi hanno detto che insomma anche il dispiegamento di forze dell'ordine per controllare che tutto ciò non degenerasse è stato imponente ieri sera a Milano. però insomma ci sta che gli egiziani abbiano fatto festa, perché per loro è stata la prima volta assoluta nella storia, e quindi direi che senza volerne abusare è stato un risultato storico e andava festeggiato. Le strade del Cairo piene di gente, di manifestazioni di gioia fino a oltre l'alba, scrivono le agenzie, ma è normale che sia così. I faraoni, beh, qui c'è Osvaldo che da Varese sintetizza e dice: faraoni 1, mummie 0, cioè, a suo modo, no? Più o meno. È una lettura della partita, anche questa. Anche se evidentemente questo mummie è ricorso in qualche titolo. Stamattina Gigi Riva ha rilasciato una dichiarazione abbastanza indignata, insomma, dicendo di non mancare di rispetto dei campioni, e si può capire. Però si può capire anche c'era per l'appunto stata un po' d'euforia eccessiva, secondo me, per quella rimonta contro gli Stati Uniti, tant'è vero che subito contro un ostacolo appena più alto come oggettivamente è l'Egitto è scattata, e in 11 e non in 10 è scattata la controprova. Sì, aggiungendo il fatto che questa volta il portiere fenomeno l'ha fatto il portiere dell'altra squadra. Noi sinceramente non bisogna deprimersi dopo queste sconfitte, come non bisogna misurare un'asticella troppo alta quando abbiamo dei successi. Quindi insomma nella misura va detto che questa Italia è uno specchio abbastanza fedele di quello che può dare la nazionale in questo momento, cioè non moltissimo sinceramente. Questo non significa che non si possa battere il Brasile, non significa che la nazionale non sia competitiva ancora per essere in prima fila anche l'anno prossimo, però è una squadra, e questo un pensiero di Mario Sconcerti ieri sera ai nostri microfoni e che io condivido, è una squadra che ha poca fantasia, cioè una squadra che ha un passo standard, diciamo che è una bella berlina che ti fa fare un bel viaggio comodo e tranquillo se vuoi, ma se devi fare dei sorpassi strappando un po' la marcia fa fatica, proprio perché non ha un cambio di passo che nessun giocatore di fantasia nella nazionale in questo momento ha, cioè non ha quella follia, non ha quei momenti di incontrollabilità, siamo molto prevedibili sinceramente. Poi è anche vero che due o tre palle gol importanti le abbiamo avute, forse abbiamo anche colpito il portiere un po' troppe volte, oltre alla sua bravura. È chiaro che pareggio sarebbe stato legittimo e non un risultato ingiusto, però tante volte invece queste cose sono capitate a noi, cioè di fare un tiro e mezzo e di vincere la partita, quindi prendiamola per quello che è stato, insomma. Scrive un ascoltatore di nome Carlo: perché nessuno dice che Buffon doveva uscire? Perché nessuno può dire che Buffon doveva uscire, caro Carlo, perché se si pretende che un portiere esca su un corner tesissimo che arriva oltre il margine dell'area piccola, allora come fa a uscire Buffon? Non ha il tempo tecnico di uscire. Poi se vogliamo dire che Buffon non è più quello di un tempo, lo possiamo dire su altre basi, ma certamente non su questa è una sciocchezza, ed è proprio una sciocchezza vera. Restiamo invece al portiere che ci ha introdotto prima, dopo averti reso omaggio, come fa Marco Manzardo, che dice: ma guardi che Tavelli ci aveva avvisato che questo Egitto non sarebbe stata una passeggiata. In effetti lo ricordo nitidamente ed è vero. Parliamo di sto portiere egiziano che mi pare sia diventato un po' l'eroe della serata. Ma lui è un eroe della serata, ma è certamente un eroe a prescindere, perché lui è considerato un grande in Egitto, al punto che quando due anni fa decise di abbandonare la sua squadra egiziana e decise di provare l'avventura europea con la maglia del Sion, ci fu un'autentica sollevazione popolare, al punto che lui, quando poi è tornato, ha dovuto convocare una conferenza stampa, diciamo così, a reti unificate per scusarsi nei confronti del suo popolo per aver tradito la patria. E la Dari è certamente un portiere stagionato, perché è del 73, quindi non è più di primo pelo, però è un'età che non impedisce grandi prestazioni evidentemente. E poi soprattutto ha subito una squalifica che non mi è ancora chiarissima, perché ieri sera mi sono un po' documentato, perché ho cercato qualche notizia su di lui e ho scoperto che nel mese di aprile lui è stato squalificato per 4 mesi per avere rotto unilateralmente il contratto nei confronti della sua squadra egiziana ed averne firmato uno con il Sion. Poi lui si è pentito ed è tornato, però la causa tra virgolette è rimasta in piedi e la FIFA lo ha squalificato per ogni competizione per 4 mesi. Ora, essendo la Confederations Cup una competizione sotto le insegne della FIFA, è possibile che la squalifica sia stata congelata, però mi rimane questo dubbio che cercherò poi di approfondire oggi. Prescindere da questo, lui ha detto insomma di essere felice di aver fatto una gran figura contro l'Italia, e come tutti quelli che fanno grandi figure contro l'Italia si è detto convinto di poter avere una chance anche nel campionato italiano. Magari non sarà così, però ha certamente disputato una grande partita, ed è stata per lui una serata di gloria. Sì, come dicevi bene tu, gli hanno anche sempre tirato addosso, per la verità. Però lui è stato molto bravo ad accorciare le distanze per farsi tirare addosso, perché quindi con un tempo d'uscita eccellente, perché sennò se non restringeva l'angolo di porta, ovviamente addosso non sarebbero finiti quei palloni. Prima di ospitare i vostri interventi in diretta all'800 24 00 24, ho ancora un paio di curiosità per Fabio. Una era questa: il divieto che la FIFA ha ufficialmente comunicato di continuare a piazzare il monitor in campo vicino al quarto uomo. Siamo alla manfrina della manfrina oppure dove siamo? Ma siamo alla manfrina della manfrina, nel senso che indirettamente Blatter non lo dirà mai, perché comunque è più furbo di me, te e tutti gli ascoltatori messi insieme, e siccome gli ascoltatori sono tanti, questo ti dà la dimensione di quanto bravo sia Blatter a fare il suo mestiere. In seconda battuta posso dirti questo, che la lettura tra le righe di questa dichiarazione è: il quarto uomo ha visto il gol e ha visto il mano del giocatore della squadra egiziana in TV e l'ha detto all'arbitro. Cioè, chi vuole intendere ha inteso perfettamente. Detto questo, io ricordo che anche i mondiali in Corea e Giappone e anche i mondiali in Germania venne fatto poi divieto di mostrare le immagini sul maxi schermo dei gol o delle azioni che potevano rappresentare un qualcosa di o pruriginoso o comunque di potenzialmente esplosivo per i tifosi, e quindi ci sta che la FIFA voglia togliere anche ogni minimo dubbio. Sinceramente a me non lo toglie, perché io credo che ci sia sempre qualcuno che guarda la partita con il monitor e con i replay, magari in un camion regia fuori dallo stadio, e che basta sia collegato con una ricetrasmittente, con qualcuno che avvisi il quarto uomo, e quindi il messaggio arriva lo stesso. Senti, situazione girone, già che ci siamo, compromessa pesantemente a meno di battere il Brasile con due gol di scarto. Certo, se due gol di scarto li dai agli Stati Uniti solo perché sono in 10 dopo essere andato sotto, e perdi l'Egitto, due gol a Brasile cominciano a essere non facilmente ipotizzabili, perlomeno. No, facilmente ipotizzabili non sono neanche impossibili, no. Anche perché l'Egitto sapevamo che sarebbe stato un avversario difficile, a maggior ragione lo sappiamo del Brasile, che in amichevole nel nuovo Wembley ci ha fatto ballare qualche mese fa. Quindi diciamo che io addirittura, paradossalmente, Gigi, più che aspettarmi una grande prova dall'Italia, ho quasi il sospetto che se lo stellone di Lippi continua, e non ho motivo di credere che si sia offuscato, l'Egitto non batterà gli Stati Uniti, perché tante volte è capitato che squadre africane o squadre non abituate a queste grandi vittorie per loro poi si afflosciassero nella partita successiva. Ricordo che ai mondiali di Corea e Giappone ci qualificammo semplicemente perché la Croazia non riuscì a battere un Ecuador già eliminato. Quindi cioè, sono segnali importanti questi. Poi è chiaro che l'Italia deve battere il Brasile comunque. Però attenzione, non diamo per scontato che l'Egitto batta gli Stati Uniti, anche se gli Stati Uniti sono abbastanza già in vacanza. No, ma tu hai detto bene, cioè non si può pensare che lo stellone abbandoni improvvisamente Marcello Lippi, anche perché se lo dovesse abbandonare all'improvviso ne abbiamo per anni, credo, di partite come ieri sera, no? Per sì, andare esatto, pari, esatto. Ho l'impressione. Sì, quindi, sì, sì. Quindi per l'unica... far pari la strada è lunga. Sì. L'unica è augurarsi che non vada così. Fabio, grazie. A voi Gigi, buona giornata a tutti. Grazie davvero, ci sentiremo credo anche domenica, nell'immediata vigilia, nel pomeriggio, 17.30, 19.30 per la precisione, l'orario di questa domenica, nel pomeriggio, per prima di questo Italia-Brasile. Vi ricordo, vi segnalo ancora che ieri sera sono stati 9 milioni di spettatori per Italia-Egitto, che non sono pochi, considerando che non trattavasi di partita di grandissimo cartello, e 9 milioni di spettatori per il 39% di share sono anzi davvero tanti. Ho le prime indagini sul conto di Eradari, frutto frutto della segnalazione di Fabio Tavelli, che tra l'altro ne ha parlato a lungo ieri sera, lo sviluppo dell'indagine a cura di Flavio Suardi conferma che la FIFA l'ha squalificato per 4 mesi, condannando lui e il suo nuovo club a pagare una multa di 900.000 euro per appunto quella rescissione unilaterale di contratto con un club egiziano per andare a Sion. E c'è un ricorso pendente, e quindi in Sudafrica è la Rari para sub iudice al momento, il che significa che se per caso, ma non credo, poi questo portiere dovesse essere squalificato, potrebbe essere rivista la classifica, e ripeto, sottolineo, non credo, della Coppa d'Africa, ma questo non toglierebbe nulla all'esito della partita di ieri e soprattutto alla figuraccia che l'Italia ha fatto. Davide ha chiamato la Verona, buongiorno. Sì, pronto? Buongiorno Davide. Sì, buongiorno, ecco, saluto lei, dottor Galtini, e complimenti per la trasmissione. Ehi. Ecco, niente, io volevo fare una piccola considerazione vista la partita di ieri sera. Ecco, io secondo me il signor Marcello Lippi si deve dimettere, perché ieri sera gli egiziani hanno esultato e noi ci siamo sentiti feriti al cuore. Feriti al cuore? Noi potevamo perdere con la Germania, con la Francia, con il Brasile, però con l'Egitto proprio no. Non sarà mica, Davide, mi scusi, non sarà mica perché per caso hanno appoggiato la fronte a terra dopo il gol, che sta girati in una certa direzione, che sta cosa l'ha ferita? Ecco, dopo volevo dire un'altra cosa. Anche il ministro degli esteri Tavelli era con fortuna che ieri diceva che sono in macchina un attimo, diceva che per fortuna non hanno la testa per vincere le partite, alla faccia, se ce l'hanno avuto. Secondo me la parte. Non hanno la testa per vincere, è sempre difficile farsi capire bene. Non hanno la testa per vincere i mondiali, cioè non hanno la testa per andare lontano nelle grandi manifestazioni. Le singole partite le hanno sempre vinte. E ricordava appunto la vittoria del Camerun. Ricordo bene la frase di ieri di Fabio. Ricordava la vittoria del Camerun contro l'Argentina nella partita inaugurale del 90, per esempio, e il Senegal contro la Francia nella partita inaugurale di un'edizione successiva. Era proprio quello il concetto, è che le squadre egiziane e le squadre africane sono capaci dell'impresa, e poi manca loro la continuità. Vede che non è semplicissimo né capire bene né spiegarsi bene, e non sempre è colpa di chi non riesce a spiegarsi. Da juventino, scrive Stefano da Brescia, dopo ieri sera rabbrividisco l'idea di una coppia centrale Chiellini-Cannavaro. Adesso rabbrividisco magari è un po' eccessivo, ma una riflessione effettivamente può essere fatta. D'altra parte, se partiamo dal presupposto del primo intervenuto che dice che Lippi si deve dimettere perché ha perso contro l'Egitto, capite bene che, come cantava Iannacci, l'importante è esagerare. Alessandro dalla provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno, salve, io invece non volevo mettere sul cattivo Lippi, perché secondo me la squadra ormai è un po' vecchia e non ci sono delle nuove alternative all'altezza della situazione. L'Italia non corre, praticamente loro correvano 100 volte più di noi il primo tempo, soprattutto. Gente come Pirlo è tecnicamente molto valida, ma non corre. Per me il problema basilare è quello. Secondo me il problema basilare è che non corre Gattuso in questo momento, cioè non corrono quelli che devono correre, perché Pirlo corre, ha sempre corso, ma insomma non è quello che deve fare, no? In particolare deve correre il necessario per smarcarsi, per giocare, ma insomma per farsi vedere, per farsi trovare, cioè Pirlo può essere poco idrorato, ma se parliamo di correre sono altri oggi quelli, mi pare, no? Che non corrono, o che se corrono a vuoto, corrono male, ma soprattutto non c'è nessuno che corra senza palla, o se non in occasioni sporadiche, e questa è la ragione per cui tutto è così lento, tutto è così prevedibile ed è così scontato, e questo mi sembra che sia un pochino il guaio di questo affare. C'è chi scrive, ma non sono pochi, che Bagni è più fastidioso ancora delle trombette. Io non lo so, perché non frequento, nel senso che mi era bastato l'Europeo dell'anno scorso, però registro questi interventi degli ascoltatori. Giannino da Milano, buongiorno. Buongiorno, sono Garanzini. Dica. Io mi aggrego al primo che ha chiamato comunque. Sì. Che sì. Lì fa bene stare, prendere un po' di sole lì a dove è il suo paese lì, a cos'è, a Viareggio. Sì. Mi sa che lì gli conviene stare. Ma noi ci ha salvato da una figura di M maiuscola, poverino quel ragazzo di Rossi, perché per il resto avremmo perso anche con quella. Eravamo 10 contro 11 e ci hanno fatto il gol loro. Cioè, ma uno si rende conto? Sì, mi rendo conto. Capita, giocando a pallone. Capita, su Garanzini. Capita, ma per giocare a pallone ci vogliono i piedi buoni. Ecco. Ci vuole chi trotta, Gattuso, Ambrosini, e ci vogliono i piedi buoni. Ha voluto cambiare tutto quanto, Quagliarella, di Natale ancora. Porteremo lei a Coverciano. Certo che il venerdì mi sembra un pomeriggio discretamente impegnativo, non ero particolarmente abituato, per usare un eufemismo. Il venerdì mi sembra un pomeriggio duretto, poi certo becchi l'Egitto e quindi la cosa si complica ulteriormente, ma sinceramente pensavo meglio. Angelo, provincia di Torino, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Senta, io sono così un allenatore del settore giovanile. Facciamo una considerazione. Io credo che il livello di quello che noi possiamo proporre a livello così nazionale sia questo attualmente. I motivi lei li sa meglio di me. Io direi che credo che arriveremo al mondiale di un anno, tra un anno, che avremo sicuramente una squadra competitiva. Quello che mi viene un po' così... mi sorge un dubbio, è che non abbiamo un grande finalizzatore lì davanti. Ha una palla e la butta dentro. Purtroppo ieri noi abbiamo avuto, lei mi confermerà, 4 palle e sono state 4 parate superlative del portiere egiziano. Io direi che una forse sì, ma le altre potevano essere trasformate un po' meglio. Sì, sì. Senza criticare il bravissimo Iaquinta, però no, ragazzi... No. La differenza è quella, se tu ne hai uno che la butta dentro, certo, che ha un piede sensibilissimo, e poi dopo possiamo dire, giustamente come ha detto lei, Pirlo non deve correre ma deve avere chi corre, però bisogna correre. Sì, e però adesso siamo arrivati lì probabilmente affrontando l'Egitto, l'Egitto aveva 1000 motivazioni, noi forse un po' meno. C'è dubbio. Appunto, come diceva lei prima, la considerazione degli altri quelli che mi hanno preceduto, non può essere una guerra quella con l'Egitto, è una partita di calcio. Certo. Se poi mettiamo delle motivazioni politiche, allora diventa difficile vincere tutte le partite, anche quelle che forse a noi non interessano poi neanche molto. Ma difatti, eppure c'è qualcuno che ce le mette anche lì, e più che politiche sono razziali, ed è questo che trovo inquietante, per il momento inquietante, poi se verrà, perché non è stato espresso chiaramente, era soltanto sottinteso, secondo me, e non so nemmeno quanto consciamente. Iaquinta ieri è stato, se non il migliore della squadra, vicinissimo. Poi dipende sempre dalle intenzioni, perché secondo me, io ho visto dei votacci a De Rossi, per esempio. De Rossi ha quasi certamente sbagliato lui nell'azione del gol. È stato molto impreciso e comunque molto più del solito, e si è perso soprattutto un po' alla distanza, però mi era sembrato nel primo tempo che fosse l'unico comunque che aveva le intenzioni di gioco, poi impreciso, d'accordo, ma l'intenzione di gioco, l'unico che provava a giocare di prima sta palla, perché se no a partire da Pirlo tutti a marcirla nei piedi, e poi già davanti si muove un poco, davanti e non solo davanti, se oltre a muoversi poco di loro, no, devono fermarsi aspettando che questi abbiano finito di accarezzarle e di portarsela avanti, diventa davvero duro. De Rossi era l'unico che cercava appunto di giocare di prima, di muoverla, di cambiare fronte. Che aveva l'intenzione, ecco, della manovra e della velocizzazione della manovra, e poi non era nemmeno lui in giornata, insomma, e quindi questo ha rappresentato un problema in più. Leggo da un'agenzia che Balotelli dovrebbe essere recuperato. L'Italia con la Svezia, partita decisiva per l'Europeo Under 21, gioca tra poco più di un'ora, gioca alle 4. Sembra aver superato l'infortunio ed effettuerà comunque un ultimo test nell'imminenza della partita, dunque davvero tra poco. C'è Giulio in linea da Milano, buongiorno. Dica Giulio, buongiorno. Buongiorno, io ho visto la partita e innanzitutto mi è piaciuto vedere l'Egitto, sono contento che ci sono queste squadre tra virgolette emergenti, però sono contento anche per loro che siano riusciti a vincere, è una bella squadra, corrono. però diciamo la mia critica è sull'Italia, cioè una squadra che ha il titolo di campione del mondo, va bene aver vinto il titolo, però l'impegno morale anche rispetto a tutta la comunità che segue il calcio, soprattutto una competizione che è così visibile, è troppo alto. È ovvio che ci sia una critica pesantissima sull'Italia, perché se non fossimo campioni del mondo, a parte che non avremmo partecipato alla Confederation, però con questo titolo, cioè, va mantenuta la dignità. Io mi allaccio al comportamento della squadra sia con gli Stati Uniti piuttosto che con il primo tempo con l'Egitto in genere, cioè non si può dire il primo tempo ha giocato male o corso male, è troppo perdere 45 minuti per capire questo. Cioè, no, la squadra campione del mondo ha un obbligo di partire dopo 5 minuti che deve capire una cosa del genere, cioè non è una squadra come tutte le altre. Giulio, le faccio un giorno o l'altro, facciamo così, le preparo una statistica di come si sono comportate le squadre campioni del mondo negli anni successivi, e soprattutto, abbia pazienza, ma seguendo il suo ragionamento, ma allora la squadra campione del mondo sarebbe sempre una, sarebbe sempre quella, perché se il solo fatto di essere campione del mondo implica che non sbagli mai dopo, o no? Come? Se il solo fatto di essere una squadra campione del mondo implica che dopo non sbagli mai, che non sbagli più, che fai sempre la cosa giusta, allora il titolo lo vinta sempre solo uno. Anche 2-0, 3-0. È l'atteggiamento della squadra in campo, non è il risultato in sé. Non è il risultato in sé, è l'atteggiamento della squadra in campo. Cioè, se lei perde 2-0 con l'Egitto, però ha la sensazione che è stato un bellissimo duello forte, cioè con una bellissima partita, con un impegno massimo, una precisione, una corsa, una manovra. Giulio, nel secondo tempo hanno creato 6 palle gol, 5 o 6 palle gol, in particolare nell'ultima mezz'ora. Io credo che di queste due partite l'unico momento in cui l'Italia è stata buona, da decorosa a buona, è stata l'ultima mezz'ora del secondo tempo di ieri sera. Il calcio poi è una cosa strana, per cui adesso arrivano le critiche, ma ieri sera quei palloni non sono entrati. Sono entrati quelli contro gli Stati Uniti, giocando peggio di ieri sera, contro un avversario più scarso e che era anche in 10, e lì andava tutto bene. È la vecchia filosofia del risultato, per il mio. Prima di tornare ai vostri commenti su Italia-Egitto, c'è questa dichiarazione di Sergio Pelissi, attaccante del Chievo, appena arrivata, appena battuta dalle agenzie. Mi sembra interessante. Mai detto di non voler vestire la maglia del Napoli. Forse è stato il Napoli a non presentare la giusta offerta al Chievo. Lo ha detto Sergio Pelissi, è intervenuto a una trasmissione sportiva di Radio Kiss Kiss. Mi ha dato molto fastidio leggere che l'ipotesi Napoli non mi affascina, ha aggiunto Pelissi, perché non è così. Ho detto che mi avrebbe fatto piacere conoscere le intenzioni del Chievo, sono andato in società, mi hanno detto che l'offerta presentata dal Napoli non era quella di cui parlavano i giornali e così hanno rifiutato la proposta. Rispetto la volontà del mio presidente, perché se devono vendere un calciatore che ogni tanto fa qualche gol vogliono una giusta entrata di soldi per comprarne un altro, ma al momento il Napoli non ha fatto quell'offerta, sicché non sono io a rinunciare al Napoli, ma è il Napoli che al momento non ha fatto quello che doveva, se davvero, per dimostrare che davvero mi vuole. Beh, insomma, questo si chiama parlar chiaro da Valdostano, no? Come che parlano poco, ma poi quando parlano si fanno sentire. Giovanni dalla provincia di Avellino, buongiorno. Signor Ganzini, io mi fa piacere parlare con lei e dialogare, perché io compro poco giornali sportivi, amo molto il basket, dal calcio mi sono un po' disinteressato, però lo vedo con un occhio, forse penso un po' più lucido di tanti commentatori che al limite parlano e ci sono molte voci che poi finiscono solamente per rovinare il giocattolo. Io tengo solamente a dire che per quanto riguarda la nazionale, che ho potuto vedere in parte ieri sera, è una statistica, e lei sicuramente lo sa per la grande esperienza, che la nazionale italiana è abituata ai grandi appuntamenti. Certo. Lippi è un allenatore alla Berzot che sa benissimo che la squadra va preparata per il mondiale. Non è che loro tendano a, diciamo così, a farsi condizionare da una manifestazione di secondo piano che può essere la conferenza dello Champ. Però noi non abbiamo, diciamo così, quella qualità, per dire ora la squadra del momento, la Spagna, che in partite o in manifestazioni un po' di secondo piano ci permetta di rendere. Secondo me la qualità è poca. Allora lei sa benissimo, quando ci sta poco, diciamo così, anche equilibrio fra la parte fisica, che lei ha detto giustamente non si corre, e la qualità che c'è in pochi giocatori, perché Rossi non fa nient'altro, Lippi si è anche arrabbiato, ma non è che i giornalisti volevano punzecchiarlo, è perché Rossi è l'unico che c'ha qualità, anzi si dovrebbero vergognare i presidenti e i procuratori italiani che hanno fatto andare Rossi in Spagna. Vabbè, qua, questo è un paese in cui ci dobbiamo vergognare di un po' troppe cose, e di quelle serie di cui vergognarsi davvero invece si vergognano troppo, troppo in pochi. Io credo che qualche fissa Lippi onestamente ce l'abbia. Cioè, Tony, butto lì un nome. Tony mi sembra che sinceramente di prove e di controprove ne abbia avute, cioè vorrei avere avuto io le prove d'appello che ha avuto, e credo chiunque le prove d'appello che ha avuto Tony in questi ultimi tempi. Evidentemente lui continua a crederci ed è un suo diritto, ma dato che Tony non è, insomma, sì, certo, e anche lui è un reduce da Germania 2006, ma non me lo ricordo protagonista nel 2006 mai, insomma, mi sembra che questa apertura di credito illimitato per Tony in particolare, ma insomma, poi non è l'unico, ma forse è il principale, qualche motivo di curiosità lo susciti. Ivan da Torino, buongiorno. Sì, buongiorno, signor Caranzini. Allora, innanzitutto volevo fare i complimenti per la previsione sulla prestazione della nostra squadra nella seconda partita da Confederation, perché infatti lei lo disse dopo le esaltanti cronache dalla nostra stampa dopo la prima partita Italia-Brasile, aveva detto che ci stavamo esaltando troppo, infatti. Sì, Italia USA, ma insomma appunto che non tutti quegli elogi non avevano fondamento. Esatto, e poi volevo chiedere per ieri sera, non so se l'avete già detto, della disposizione dei difensori nel calcio d'angolo. Io ho fatto il portiere a livello giovanile, poi il difensore, ma in entrambi i casi un portiere secondo me deve mettere una o due persone sui pali. Non so come mai Buffon, ma anche nella Juventus spesso non mettono i difensori sui pali. Ieri sera i pali erano abbastanza puliti in effetti, non si sono visti grandi presenze sul palo, a parte il fatto che io credo che quella traiettoria, cioè quel colpo di testa così perfetto, sia difficilissimo poi da intercettare, perché è secco, no, non bisogna far saltare un avversario così libero in area, così libero di colpire, di schiacciare perfettamente. Però c'è stato un errore collettivo, cioè sia di chi doveva marcare questo, sia di chi doveva fare un eventuale taglio fuori, sia di chi doveva piazzare meglio le pedine anche sui pali. Riccardo da Bolzano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Niente, io volevo solamente dire che secondo me, come succede spesso, come hanno rimarcato già altri ascoltatori, la nostra squadra nazionale certi impegni li sottovaluta e dopo vengono fuori queste figuracce, tra virgolette, diciamola così, che poi alla fine non è morto nessuno, voglio dire, è una partita che si poteva vincere, per carità, però si poteva anche perdere, così è stato, punto. Speriamo che nella prossima perlomeno ci sia una bella partita da vedere, poi vada come vada. Questo qua volevo dire, solo un po' per drammatizzare forse che la pressione che c'è stata dopo aver vinto contro gli americani sembrava che fossimo calati dal cielo come degli dèi, adesso siamo stati sommersi sotto 5 metri di M maiuscola, insomma, ecco. Sì, secondo me sono sì. I vari sono due limiti che non vanno mai insomma raggiunti, ecco. Va bene, grazie Riccardo. Può essere che abbiamo qualche difficoltà di collegamento oggi con in Sudafrica e con Stefano Piazza. Allora potremmo rimediare, se non riusciamo a collegarci con lui, potremmo rimediare mandando in onda una intervista che Stefano Piazza ci ha mandato stamane a Sandro Mazzola. Quindi io direi in regia di far comunque partire la sigla. Confederation Cup, a un anno dal Mondiale. E a questo punto l'intervista che Stefano Piazza ci ha riversato stamane dal Sudafrica a Sandro Mazzola. Come le è sembrata finora l'organizzazione dei sudafricani? No, mi è sembrata buona. Mi pare che finora non ci siano stati inconvenienti, molto controllo, quindi direi buona. Quindi è ottimista per i mondiali del prossimo anno, anche sul piano della violenza, se ne è parlato molto in Italia. Ma da quello che vedo come esperienza personale e della gente che conosco, mi pare che non ci siano stati problemi, quindi mi pare che possano essere in grado di organizzare bene il mondiale. Invece parlando di calcio, chi pensa che possa arrivare più avanti, che possa vincere la Confederations Cup? Ma la Spagna del primo quarto d'ora della prima partita mi ha spaventato, poi quella di ieri mi ha spaventato un po' meno. Il mio modo di vedere mi sembra fra le tre favorite la squadra più in forma in questo momento, però ci sono ancora dei giorni, quindi potremmo anche noi tornare più in forma. Il giocatore che l'ha impressionata di più finora invece? Ma a me è piaciuto il solito centravanti della Spagna, però mi è piaciuto il numero 5 dell'Iraq. E anche il portiere dell'Iraq mi è piaciuto, soprattutto perché non li conoscevo e mi sono sembrati i due giocatori, il portiere impostato molto bene. Milutinovic forse ha migliorato moltissimo la fase difensiva dell'Iraq. Milutinovic lo conosco da tanto tempo, in queste cose è bravissimo. Certo. Infatti anche ieri abbiamo visto che hanno giocato molto la loro metà campo, quindi probabilmente non hanno anche una punta di grande valore da poter innescare. Però sono disposti bene, sono rapidi, mi sembra che stia facendo un buon lavoro. C'è un ascoltatore che è rimasto in attesa da qualche minuto, Paolo dalla provincia di Bologna, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ma dunque io porrei questo quesito, qualora le due partite rimanenti nel girone dell'Italia dovessero terminare con due pareggi magari con lo stesso tipo di punteggio, chi passerebbe alla fase successiva? L'Italia, perché ha segnato un gol in più rispetto agli Stati Uniti, rispetto all'Egitto, mi scusi. Ah, ho capito, va bene, la ringrazio e buona giornata. Dal tono mi ero preoccupato di più, Paolo, sinceramente. No, è così, stiamo sereni. Nel caso di un doppio pareggio va così, poi io non credo molto al doppio pareggio. Non credo nemmeno al fatto che ci siano particolari patemi nel paese per il prosieguo o meno dell'Italia nell'avventura Confederation Cup, che insomma, ricordiamolo, è un la tappa di avvicinamento al mondiale, che indubbiamente la squadra sta interpretando male. Questo sì, ma non è che ci sarebbero macerie se dovesse finire come è cominciata. Certo, non sarebbe un bel modo e sarebbe un segnale d'allarme, e poi si sa che le polemiche non fanno mai bene, a maggior ragione a chi non è abituato a reggere le polemiche. Sto parlando evidentemente di Lippi. Paolo, grazie. Il ripasso della storia, dunque, Nicola Filippone. Sembra ieri. 19 giugno 1990. Roma, Stadio Olimpico, fase finale dei mondiali. L'Italia, reduce da due successi, si gioca il primo posto nel gruppo A contro la Cecoslovacchia. Nell'occasione il CT Vicini spiazza tutti, affidandosi in attacco alla coppia inedita Schillaci-Baggio, che qualche mese dopo si sarebbe ricomposta nella nascente Juventus di Maifredi. E i due attaccanti emergenti ripagano la fiducia risultando decisivi nel 2-0 finale, con un gol a testa. Memorabile la seconda rete di Baggio, autore di una travolgente serpentina da metà campo dopo una triangolazione con Giannini. Una marcord del Mondiale del 90. L'Italia, mi scrive un ascoltatore, ha segnato un gol in meno dell'Egitto, quindi in caso di doppio pareggio azzurri a casa. No, è esattamente il contrario. L'Italia ha vinto la sua partita per 3-1 e ne ha persa una per 1-0. L'Egitto ne ha persa una per 4-3 e ne ha vinta per 1-0. Quindi l'Italia è in vantaggio nella differenza reti, e in caso di pareggi incrociati è l'Italia che passa il turno. L'Italia poi, se batte il Brasile con un gol solo di scarto, può andare fuori in caso di vittoria dell'Egitto contro gli Stati Uniti. In caso di vittoria con due gol invece butterebbe fuori direttamente il Brasile, perché a quel punto avrebbe una miglior differenza reti, oppure non lo butterebbe fuori se l'Egitto nel frattempo non batte gli Stati Uniti. 14, 49 e 40, beh, insomma, con un certo ritardo rispetto al solito del venerdì, e nemmeno con la sigla, ma insomma è il momento, come anticipato all'inizio, della parentesi dedicata al basket. Buongiorno dunque a Fabio Tranquillo. Buongiorno. Così tardi, ripeto, per due ragioni. La prima è perché la cronaca, il dovere di cronaca imponeva di soffermarsi su questa inattesa sconfitta dell'Italia ieri contro l'Egitto. L'altro è che sempre per dovere di cronaca, insomma, o è stata così forte Siena o è stata così debole Milano, che questa finale playoff è durata poco, è finita tutto sommato prima del previsto, oppure il 4-0 era, come qualcuno sosteneva, il risultato più probabile? Probabilmente era il più probabile, mi scuso per la ripetizione. Certo, poi Milano ha avuto abbondantissime chance di vincere gara 3 e in quel caso comunque sarebbe stata una serie più complessa per Siena, che ha fatto vedere della stanchezza prima mentale che fisica in gara 3. Poi una volta vinta gara 3, gara 4 veramente è come se non fosse stata giocata dal punto di vista di Milano. C'era un problema di microfono, chiedo scusa a Flavio Tranquillo, ho schiacciato, come ogni tanto mi accade, un tasto, non esattamente il tasto giusto. Va bene, questo va bene, però cioè, dov'è la maggior colpa o dov'è il maggior merito, intendo dire? È chiaro che una squadra che vince tutte le partite dell'anno meno una, e tra l'altro contro una squadra che poi retrocede e che ai playoff si comporta in quella maniera, è chiaro che è una squadra nettamente superiore, e va bene, ma appunto, è maggiore il suo merito o è ancora maggiore il demerito di chi non è riuscito a competere, non dico fino all'ultimo, ma perlomeno un po' di più? E non parlo soltanto di Milano, parlo anche di tutte le altre. Certo, la questione merito-demerito è la prima domanda che uno si fa vedendo il punteggio, vedendo tutti i dati che tu hai giustamente ricordato e denucleato. Io penso che sia difficilissimo mettersi a tavolino e dire è al 57,4% merito, sì, e il certo. Resto demerito o viceversa. Certo. Sono abbastanza sicuro che non ci sia lo scontro tra una squadra LeBron James, Kobe Bryant, Dwight Howard e compagnia e una con giocatori normali. Semplicemente il modo con cui gioca e organizzata in campo, attorno al campo, fuori dal campo Siena, in questo momento marca una differenza che va molto al di là della differenza teorica tra il valore dei giocatori di Siena, che è elevato, elevatissimo, e il valore dei giocatori delle altre, che magari non è necessariamente così elevato, ma non è neanche a 15, 20, 30, 40 punti di distanza. Flavio, come si è arrivati a una dittatura del genere? Cioè a tre scudetti consecutivi, che mi pare poi sia il quarto in assoluto, ma soprattutto a scudetti, parlo dell'ultimo in particolare, così, non so, così disarmanti addirittura, no? Così senza... tu sai che io sono un profano in materia, ma insomma i risultati li leggo, ogni tanto qualche filmato lo vedo. Sembrava che quella vittoria di un punto nella prima partita a Milano, insomma, perlomeno preludesse a una serie che poteva durare, se non altro, una partita in più. Quindi li hanno rimassacrati quasi doppiandoli, mi pare, no? All'ultima. Come si è arrivati a una dittatura così? Beh, si è arrivati col tempo, intanto, e questa è la considerazione più importante. Si è arrivati con Siena che ha trovato una sua ossatura, ha vinto il primo scudetto dell'era Pianigiani, superando comunque dei traumi, un inizio tutt'altro che facile, qualche vittoria, ne ricordo per esempio una con Napoli ai supplementari, di quelle che ti fanno prendere il bivio giusto, superando la sconfitta in gara 1 in semifinale contro Roma, in casa, vincendo gara 2, una partita che, se persa, probabilmente avrebbe chiuso sul nascere il ciclo. Invece queste due o tre partite bivio superate hanno dato a Siena la sicurezza che ci fosse un modello di basket su cui lavorare. Quel modello ha come ossatura, diciamo, per semplificare, Mucci dietro alla scrivania, Pianigiani in panchina, McIntyre e Stonrook in campo, e attorno a loro è stato costruito, facendo anche qualche errore o comunque prendendo qualche palo, però costruito. Sì. Nel frattempo le altre dicevano: siamo più scarsi di Siena, qual è il problema? Sicuramente l'allenatore, via, il playmaker, via, il centro, via, e poi prendiamo anche tre giocatori che sono più forti, il che significa partire ancora più lontano da Siena, certo. Quindi all'inizio significa avere ancora più problemi, e la conclusione di tutte le altre è stata: ah, allora dobbiamo cambiare. Quindi hanno ricambiato tutto, mentre Siena faceva dei cambi mirati, così il gap può solo allargarsi, A meno che tu non abbia il doppio da spendere rispetto a Siena, allora forse, ma non è il caso. No, il problema, dopo tre anni di dittatura, che mi ricordano molto quelli della disciplina di cui mi occupo un po' di più, cioè del pallone, mi ricordano quelli dell'Inter, però mi sembra che il problema sia comune, cioè che sia adesso quello di provare, se non a vincere, perlomeno a fare una figura molto più simile a quella che si fa entro le mura, a farla anche in Europa. Vale per l'Inter, ma mi pare valga anche per il Siena. Sì, che decisamente ha come obiettivo quello di vincere l'Eurolega, ci è andata vicina nella passata stagione, ci è andata tutt'altro che lontana in questa. Intanto è importante che sia in competizione in Europa per davvero, e lo è per davvero. Poi la strutturazione dell'Eurolega, la formula è tale per cui te la giochi quasi sempre su una o due partite, e all'interno di quell'uno o due partite magari su uno o due episodi, quindi vincerla non è così programmabile. Però Siena riesce a fare questo e ha questo tipo di respiro, questo tipo di ambizione. Si attendono squadre che possono avere un progetto che però si sviluppa nel tempo, non può permetterti domani mattina di andare a battere di 15 punti Siena e andare a fare la Final Four di Eurolega. Questo non è realistico, ripeto, a meno di non mettere i 35, 40, 45 milioni di euro, che sono cifre che in questo momento, certo, appartengono a due o tre squadre in Europa che non sono italiane. Quindi attendesi progetto serio e con pazienza e che comprenda anche degli errori, perché tutti i progetti comprendono degli errori che vanno corretti in corsa. Per punirmi ulteriormente, ma per indennizzare gli ascoltatori da questo mancato basket di oggi, ne riparleremo domani a partire dalle 17.30 e ci saranno in particolare le pagelle di Flavio Tranquillo all'intero campionato italiano di basket. Flavio, grazie. A voi. Grazie all'altro Flavio Suardi che è stato in redazione. Grazie a Filippo Aureggi in regia. Appuntamento, vi dicevo, domani alle 17.00.